voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Scusi, ragionier Fonelli, abbiamo deciso di iscriverci tutti alla stessa gara. Benissimo, quale gara? Il lancio del pronto! Passatemi giù! Andate a giocare al pallone, che non fa neanche bene alla salute. Andate, andate allo stadio voi a vedere le vostre partite di calcio. Tanto non capite niente. L'atletica è la regina degli sport. Fonelli! Signor direttore, le osservazioni di Fabian Plotnik sul Fabrizio's Villanova Restaurant non mancano di acume e perspicuità. Egli omette però, nella sua penetrante analisi, di dare risalto al fatto che il Fabrizio's, pur essendo gestione familiare, non si conforma alla classica struttura di tali trattorie casarecce italiane, bensì, cosa molto curiosa, si modella sul nucleo domestico dei ceti medi gallesi, nei distretti minerari, in epoca anteriore alla rivoluzione industriale. I rapporti intercorrenti fra Fabrizio e sua moglie e i suoi figli sono paleocapitalistici. I costumi sessuali degli sguatteri, dei cucinieri e in particolare della cassiera sono di tipico stampo vittoriano. Le condizioni di lavoro rispecchiano anch'esse problemi aziendali britannici. I camerieri, per esempio, servono anche per 8 o 10 ore al giorno, con al braccio salviette non conformi alle vigenti norme per la sicurezza sul lavoro. David Rapkin. Signor direttore, nella sua recensione al Fabrizio's Villa Nova Restaurant, Fabian Plotnik definisce ragionevoli i prezzi. Ma definirebbe forse ragionevole i quattro quartetti di Eliot? Il ritorno di Eliot ad una fase primitiva del Logos rispecchia una sua concezione del mondo. Ma andiamo, far pagare $8.50 una porzione di crocchette di pollo? Non ha alcun senso, neppure in un contesto cattolico. Si legga al signor Plotnik il mio articolo su Encounter, numero 2 del 1958, intitolato Eliot, la reincarnazione e la zuppa di pesce. Eino Schmederer. Signor direttore, ciò di cui Plotnik non tiene conto, nella sua esegesi delle fettuccine di Mario Spinelli, è naturalmente l'entità delle porzioni, o per dirla più alla buona, la quantità delle tagliatelle. Vi sono ovviamente tante lasagne dispari quante lasagne pari e dispari insieme, in un piatto. Ciò è chiaro, è un paradosso. La logica, se vogliamo applicarla alla linguistica, non consente a Plotnik di usare la parola fettuccine con alcuna accuratezza. Le fettuccine stesse diventano un simbolo. Mi spiego, diciamo fettuccine uguale x, allora a uguale x fratto b, in cui b rappresenta una costante uguale alla metà di ogni porzione. In base a tale logica si dovrebbe affermare le fettuccine sono pappardelle. Ridicolo! Non si può quindi asserire le fettuccine sono squisite, bensì si dovrà dire fettuccine e pappardelle non sono rigatoni. Come Gödel ha detto e ripetuto, ogni cosa va tradotta in un calcolo logico prima di venire mangiata. Professor Ward Babcock, Massachusetts Institute of Technology. Questo era ancora Critica d'arte culinaria, da Effetti collaterali, di Woody Allen. You. 30 minuti di eclettica della settimana. La voce che sentite è quella di Giulio Caperdoni, le frequenze sono quelle di Rock FM. La trasmissione si chiama Eclettica, in onda tutti i giorni della settimana fra le 19 e le 20. Questi ultimi 30 minuti si sono aperti con l'ultimo singolo Take Her Back da parte dei The Pigeon Detectives, sicuramente una delle band inglesi del momento, e si è proseguito poi con i canadesi di Vancouver, per la precisione, di nome The Mohawk Lodge, quintetto che è in uscita con un nuovo album di lunga durata dal titolo Wildflowers, prodotto da Daryl Neudorf, lo stesso produttore di New Pornographers e Neko Case, album dal quale ci siamo ascoltati Wear 'Em Out. Ed ora invece è la volta degli spagnoli Moose, un brano che sta caratterizzando da qualche tempo a questa parte le playlist di Eclettica. Loro sono di Gijón, sulla costa delle Asturie, nel nord della Spagna. Sono Fran Gaio e Monica Vacas, assieme dal 1997, anno di uscita dell'EP Zuna. Poi tanti anni per la Aquarela Records ed ora, nel 2007, un album invece per un'altra etichetta spagnola, la Green UFOs, un nome che avete sentito nominare spesso da queste parti negli ultimi mesi. Per la Green UFOs sono usciti i Moose a fine primavera con un album dal titolo La Vida, dal quale noi andiamo sempre a pescare Perdieron y la Tierra. occupato. Ma cosa sta facendo? Sto votando. Ah, bene. It used to make me so fed up. People always asking me, what will you be when you grow up? You're gonna need security. Spend a little time in school, wishing I was somewhere else, having fun and acting cool. I just wanna be myself. Signor direttore, ho letto con grande interesse la recensione di Fabian Plotnik al Fabrizio Svillanova e trovo che è un ennesimo vistoso esempio di revisionismo storicistico. Come abbiamo fatto presto a dimenticare che durante il periodo più nero delle purghe staliniane, il Fabrizios non solo restò aperto, ma ampliò la sala interna per accogliere un maggior numero di avventori. Nessuno là parlava della repressione politica in URSS. Anzi, quando il comitato pro-dissidenti sovietici inviò al Fabrizios una petizione affinché depennasse gli gnocchi dal menù fino a quando i russi non avessero liberato Grigori Tumčinskij, il noto cuoco trotskista da tavola calda, il Fabrizios rifiutò. Tumčinskij a quell'epoca aveva già compilato un ricettario di 10.000 pagine che gli fu sequestrato dalla NKVD per aver procurato bruciori di stomaco a un minorenne. Questa fu la patetica scusa con cui il tribunale sovietico inflisse i lavori forzati a Tumčinskij. Dove erano allora tutti i cosiddetti intellettuali del Fabrizios? La guardarobiera Tina non levò alcuna protesta, allorché tante guardarobiere, da ogni parte dell'Unione Sovietica, venivano prelevate dalle loro case e costrette a guardare la roba dei gerarchi stalinisti. Si ricorderà altresì che quando dozzine di medici russi furono accusati di mangiare troppo, molti ristoranti chiusero, in segno di protesta, i battenti, ma il Fabrizios restò aperto e anzi istituì la prassi di servire un amaro gratuito alla fine del pasto. Io stesso cenavo talvolta al Fabrizios negli anni 30 e potei constatare che era un covo di protervi stalinisti che servivano di soppiatto un piatto di blincichi e legnaro avventore che aveva ordinato Fusilli. È assurdo ora dire che i clienti per lo più non sapevano cosa avvenisse in cucina. Se uno ordinava pasta e ceci e vino rosso e si vedeva arrivare sci e kvass, era chiaro, direi, cosa avvenisse. Fatto sta che quegli intellettuali preferivano semplicemente far finta di non accorgersi di nulla. Una sera cenai al Fabrizios con l'esimio professore Gideon Cheops. Gli fu ammanito un tipico mangiare da mugico: zuppa di cavoli, borscht e pirozki. Ebbene, quale fu il suo commento leccandosi le labbra? Deliziosi questi spaghetti, non trovi? Professor Quincy Mondragon, New York University. Le risposte di Fabian Plotnik. Il signor Schmederer dà prova di non intendersi né di conti del trattore né dei quattro quartetti. Elliot stesso riteneva che dollari 8,50 per una porzione abbondante di buone crocchette di pollo, cito da un'intervista sulla Partisan Review, non fosse un prezzo esorbitante. Anzi, in Recuperi secchi attribuisce tale giudizio a Krishna, seppure non con queste precise parole. Sono grato a David Rapkin per le sue osservazioni sul diritto di famiglia e anche al professor Babcock per le sue penetranti analisi semiologiche, quantunque io metta in dubbio la sua equazione e suggerisca piuttosto il modello seguente. A. Alcune pastasciutte sono lasagne. B. Le lasagne non sono spaghetti. C. Gli spaghetti non sono pastasciutta, ergo, tutti gli spaghetti sono lasagne. Wittgenstein ricorse al suddetto modello per dimostrare l'inesistenza di Dio, e più tardi Bertrand Russell se ne servì per dimostrare che non solo Dio esisteva, ma trovava Wittgenstein un po' scarsino. Infine, al professor Mondragon vorrei far notare che sebbene Spinelli lavorasse al Fabrizios negli anni 30, torna senz'altro a suo credito il fatto che, quando l'infame comitato per le attività antiamericane esercitò su di lui forti pressioni affinché sostituisse sul menù al prosciutto e melone un più politicamente anodino prosciutto e fichi, lui ricorse alla Corte Suprema e l'indusse a emanare una sentenza ormai famosa. Gli antipasti hanno diritto alla piena protezione in base al primo emendamento. Questo era ancora critica d'arte culinaria da Effetti collaterali di Woody Allen. She's a gambler, spinning wheels, the poison victim, a look of steel, the coldest hearts you've ever felt, the coldest hands you've ever held. Ticking down on her way, a million miles, still no headway. As I love to let blow, in a mind I'm proud to roam. She is elusive and I'm awake, defiantly real, there's nothing fake. A mystery now to me and you. Open my eyes and now next to you. She said my destiny lies in the hands that set me free.